Dopo un'altra delusione vado in cerca di pozione. Costa poco il beverone dal sapore di popone. E lo trovo facilmente, basta ser seguir la gente. Che sia povera o d'abbiente vuole sciogliersi la mente. Tutti vanno dentro un buco scuro e brutto come un bruco. Tutti vanno a fare il fuco per le streghe del sambuco. Tutti in fila a far la coda per il veleno con la soda. Credo non sia solo moda, fa piacer far testa coda. Fa scordare ogni malanno ed inganna il disinganno. Certo fa anche qualche danno perder qualche compleanno. Ma si paga con piacere un po' d'essere e di avere, per potere un po' godere del poter di non sapere. C'è una strega che comanda il colore alla bevanda. Per pagarsi una veranda avvelena una gran banda. A un'età non veneranda cede ad ogni propaganda. Manda tutti stesi in branda per pagarsi un viaggio in panda. Ci guadagnano un po' tutti dai bicchieri di Ole Stutti. Ci guadagna il proprietario e la strega col salario. Ci guadagna l'acquirente che si scorda d'esser niente. Ci guadagnano i governi, se non pensi sono eterni. Ma ci perde ogni gente che così non ha mai niente. Bevi valli, bevi ancora ed arriva la tua ora. C'è una strega che comanda il colore alla bevanda. Per pagarsi una veranda avvelena una gran banda. A un'età non veneranda cede ad ogni propaganda. Manda tutti stesi in branda per pagarsi un viaggio in panda. Son decotti colorati per futuri già variati. Alza il capo, cato blepa, sul tuo capo c'è una crepa. Ripararla si può fare, però il capo devi alzare. Con il muso nella coppa tutti sfruttano la tua groppa. E c'è una strega che comanda il colore alla bevanda. Per pagarsi una veranda velena una gran banda. A un'età non veneranda cede ad ogni propaganda. Manda tutti stesi in branda per pagarsi un viaggio in panda. C'è una strega, sì, che comanda il colore alla tua bevanda. Per pagarsi una veranda, solo una veranda, avvelena una gran banda. A un'età che non è veneranda, cede ad ogni propaganda. Manda tutti stesi in branda, per pagarsi un viaggio in